E a questo punto vi auguro un buon ascolto con le registrazioni degli eventi organizzati a Genova per realizzare questa trasmissione. Il primo presso la sede di Nottetempo Blog. Io sono Giulia, leggo perché la vita non mi basta. Preparava la barca e si partiva di mattina presto. L'isola era muta e scendendo scalzo alla marina un ragazzo poteva sentirsi liscio per la pietra sotto i piedi, profumato per il pane che gli sfiorava al naso dai forni, adulto perché andava sul mare verso il largo e le profondità a maneggiare un'arte. Harry De Luca, tu mio. Sono Alessandra. Io leggo perché si può imparare dai pensieri degli altri. Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, Signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta, inevitabilmente, le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo come gli ha dentro. Da sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello. Sono Viviana, leggo perché la TV mi annoia. Sensazione o illusione? Toccherà a te scoprirlo. Da questa parte del velo ho compreso come cogito ergo sum sia un'affermazione avventata. Tu esisti davvero soltanto quando non pensi, perché quando smetti di pensare con la testa che comincia a sentire con il cuore. E quella la tua identità. Avrò cura di te, di Grammelieri e Gamberari. Sono Benedetta, leggo perché sono curiosa. La timidezza è forza di vita fragile, infinitamente fragile, si rompe facilmente. Dà la fragilità che è in noi, Eugenio Borgna. Sono Marzia, io leggo perché è sempre primavera. Il guerriero si immerge senza esitazioni nel fiume di passioni che scorre sempre attraverso la vita. Di Paolo Coelho, manuale del guerriero della luce. Sono Chiara, io leggo perché è un'occasione. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte, ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Sono Elena e leggo perché mi piace. Nella vita, quando ti trovi di fronte a una cosa importante, non significa che devi rinunciare a tutte le altre. Di Paolo Coelho, da Breda. Sono Cecilia, io leggo perché mi permette di fermarmi, pensare, riflettere e crescere. Creare dei legami. Certo, disse la volpe, tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unica al mondo e io sarò per te unica al mondo. Tratto da Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Sono Federica, io leggo perché mi piace scoprirmi. Preferisco accettare la mia solitudine. Se cercassi di fuggirla, non incontrerei mai più una compagna. Se anziché lottare contro di essa, l'accetterò, forse le cose cambieranno. Ho capito che la solitudine si rivela più forte quando si tenta di contrastarla, ma si indebolisce quando viene ignorata. Di Paolo Coelho, La strega di Portobello. Sono Stefania, io leggo perché leggere semplicemente apre la mente. Noi dobbiamo accogliere la nostra esistenza quanto più ampiamente ci riesca. Tutto, anche l'inaudito, deve essere ivi possibile. E questo in fondo il solo coraggio che a noi si richieda, il coraggio di fronte all'esperienza più strana, più prodigiosa e inesplicabile che si possa incontrare. Tratto da Lettere a un giovane poeta di Rilke. Sono Livia, io leggo perché per me leggere è musica. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la voz. I prossimi interventi sono quelli dei bambini e dei ragazzi dell'Alliance Française di Genova. Buon ascolto. Mi chiamo Ines, io leggo perché mi piace, mi faccio abbastanza trasportare, diciamo, dalla lettura e basta. Questa è la storia di una ragazza bella che si trasferisce in una città chiamata Forks e che incontra Edward e Jacob, che sono rispettivamente vampiro e lupo mannaro. Fra Edward e Bella nasce una storia d'amore. Une fois de plus, nous nous retrouvâmes à arpenter la plage sans but précis. Jacob ne cessait de te rengorger, d'avoir mis au point mon escapade. Penses-tu qu'ils vont venir te chercher ? S'inquiétait-il d'une voix pleine d'espoir. Non, affirma-je avec certitude. En revanche, ils seront furieux après moi quand je rentrerai. Alors, reste, proposa-t-il de nouveau en ramassant un galet qu'il lança vers les vagues. Voilà qui ravirait Charlie. Il n'aurait rien contre. Il ne relevait pas. Il avait sans doute raison, ce qui me mettait hors de moi. La préférence évidente de mon père pour mes amis qui, eux, était injuste. Aurait-il réagi ainsi s'il avait su que je devais choisir entre des vampires et des loups-garous? Io leggo perché è divertente scoprire una storia che non hai mai sentito. E anche perché puoi imparare tante cose in un libro. Mi chiamo Margot e oggi leggerò La Baignade. Quand ils ont réalisé que j'avais pu briser leur corps du monde de plongée, ils ont commencé à être inquiets. C'est là qu'ils ont mis la tête sous l'eau pour voir ce qui se passait. Et ils n'ont pas été déçus. Mi chiamo Anaïs e leggo perché mi fa piacere e mi lascia trasportare dalle storie. Ho scelto il libro che si intitola Où suis-je? Allora, maman, joue à cache-cache avec moi. Tu dois me chercher, crie Coin-Coin, e il disparaît. Encore? Mais il dit oui quand même e commence à le chercher. Sono Costantino. A me piace leggere perché imparo tante cose che non so e certe cose che sui film non si vedono e mi aiuta a calmarmi. Ho scelto come libro Il Piccolo Principe perché visita tanti mondi diversi. A Petit Prince, j'ai compris un peu once la petite fille malinconie qui ne va une longue tombe pour distraction, c'est la douceur des chœurs des soleils. Io leggo perché tutte le sere, prima di addormentarmi, leggo sempre un libro. Leggo Le loup qui avait peur de tout. Sur son édredon en pleurniquant. Maman, maman, il y a un géant, il y a un méchant. Mi chiamo Roberto. Leggo perché mi Mi fa sognare anche un modo per passare il tempo, invece che guardare la televisione. E questo libro mi piace, lo leggo perché mi piacciono tanto i libri fantasy. E allora questo mi fa immaginare come sarebbe se esistessero questi pianeti. Le petites princes. Voilà le meilleure, pourtant que plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Allora, io mi chiamo Marianne e leggo perché mi piace leggere ed è anche un modo per passare il tempo libero. E in questi ultimi giorni ho letto Le Fontaine à Côté, che è la storia di una ragazzina che si chiama Anna, che ha sempre pensato che la casa accanto alla sua era vuota. Quello che mi piace è un po' la fine di questo libro e ve la leggo. Dani, souviens-toi de moi, cria-t-elle vers son ami, dont elle apercevait pour la dernière fois le visage dans une plombe argentée. Io mi chiamo Sara e adoro leggere perché guardare la televisione o stare su internet non mi piace tantissimo, soprattutto guardare la televisione, odio la televisione, diciamo, perché anche i programmi secondo me sono stupidi. Oggi leggerò un pezzo di Le Journal de Maillan, di Maillan, quindi è una storia vera, e Pierre Aski. Je veux étudier, maman. Je ne veux pas rentrer à la maison. Comme ce serait magnifique si je pouvais rester éternellement à l'école. Io mi chiamo Camilla. E mi piace leggere perché è divertente e posso sognare. Io leggo Petronio di Claude Ponti. Une Madeleine, c'est difficile à consoler parce que ça fait une mer, un lac, un océan, un super océan. C'est gênant. Sono Livia, io leggo perché leggere con i bambini è gioia. S'il vous plaît, silence.